i giornali hanno dato ampio risalto all'annuncio di Rubbia, chissà quante speranze ha ingenerato. Udite, udite, Rubbia, premio Nobel, udite, udite, in grazia di un acceleratore di protoni terremmo acceso un reattore nucleare dal quale ci arriverà energia sicura, pulita e praticamente inesauribile. Così tutti i giornali. È festa grande, insomma. Ugo Amaldi, uno che di fisica ne sa qualche cosina, lascia passare qualche giorno e, per raffreddare quegli entusiasmi che è più facile raffreddare di quanto non sia invece raffreddare un reattore nucleare, puntualizza alcune cosine. Punto primo. Si tratterebbe di un amplificatore di energia relativamente piccolo e poco ingombrante, ma per ottenere l'energia che ci servirebbe, di questi marchingegni ce ne vorrebbe parecchi. Punto secondo. Occorre del torio, materia da cui si avrà, regaluccio, sostanze radioattive che decadono in qualcosa come 1000 anni soltanto, punto esclamativo. A patto che, ovviamente, dopo una decina di anni, con i procedimenti del caso, si separino chimicamente le sostanze a più lunga durata da quelle a più breve durata. Se no, anche di più dei 1000 anni soltanto. Punto terzo. Il reattore si spegnerebbe così, con l'acceleratore, con un clic. Ma per evitare la fusione del nocciolo, la cosiddetta sindrome cinese, occorrerà provvedere ad un raffreddamento costante. Punto quarto. È vero che fra le sostanze prodotte ce ne sono alcune che possono servire per bombe nucleari. Non è vero che queste bombe potrebbero essere ottenute con relativa facilità. Ma è, ahi noi, verissimo che queste bombe potrebbero essere ottenute ugualmente a costo di qualche difficoltà. Punto quinto. Di acceleratori di questa potenza non ne sono stati ancora, non dico costruiti, ma neppure progettati. Ancora una volta, evidentemente l'entusiasmo dei giornalisti poteva più essere giustificato dalle prebende ricevute per pubblicare la notizia che non dalla sostanza della notizia stessa.